Vuoi ascoltare una bella storia, ma proprio bella? Ne conosco tante io. Adesso ti racconto una fiaba. È la fiaba del Mago di Oz e parla del viaggio meraviglioso di una bambina chiamata Dorothy. Ecco arrivano gli eroi, sono più forti di un cowboy. Ecco arrivano gli eroi, sono qui solo per voi. Per fare una fiaba ci vuole? Ci vuole un castello, un grillo con l'ombrello, un gigante intrigante, una fata assai paziente, una fuga imprudente, un finale sorprendente. Ecco arrivano gli eroi, sono più forti di un cowboy. Ecco arrivano gli eroi, sono qui solo per voi. La bambina chiamata Dorothy dormiva tranquilla nel suo lettino. Improvvisamente una tromba No, una tromba d'aria sollevò la sua casa. Dorothy era sola. Gli zii con i quali viveva erano usciti di prima mattina per lavorare nei campi. Si ritrovò così trasportata tra le nuvole. Vola, vola, vola, la mia casa vola, e io sono sola, e io sono sola. Quando parlo, volevo dire quando abbaio. Dorothy e il suo cane Toto volteggiavano in cielo. Sotto di loro non c'era più la campagna consueta, ma un prato verde smeraldo tutto fiorito. Atterrarono dove una becchina non più alta della bambina diede a Dorothy il benvenuto nel regno di Oz. Poi la ringraziò per aver ucciso la perfida strega dell'est. Ucciso, cioè ammazzato. Dorothy protestava inutilmente, diceva che non aveva ammazzato nessuno, ma la vecchietta insisteva. Mostrò un paio di piedi che spuntavano da sotto alla porta del ripostiglio e spiegò che appartenevano alla strega dell'est. Tu, Dorothy, non capisci me, ma io capisco questa signora meglio di te. Siamo capitati in un reame dove ci sono due streghe buone, quella del sud e quella del nord. E una l'hai appena conosciuta, è la vecchia signora. Ci sono anche due streghe cattive, quella dell'est e quella dell'ovest. E una l'hai uccisa tu. No, non piangere, Dorothy. So che vuoi tornare a casa, ma la signora vecchia strega sta dicendo che è difficile andarsene dal regno del potente mago di Oz. Quasi impossibile. Ma noi due, Dorothy, ci proveremo. Andiamo su, incamminiamoci verso la città di Smeraldo. Là abita il mago di Oz e lui forse ci aiuterà. Boh. Così Dorothy e Toto presero a marciare su una strada lastricata di pietre gialle verso la città di Smeraldo. Giunti nel mezzo di un campo di grano dorato, sentirono qualcuno che li chiamava. Toto drizzò le orecchie e Dorothy aguzzò la vista. Ma c'era solo uno spaventapasseri nel campo. Era lui che parlava. Era lui, lo spaventapasseri. Chiedeva aiuto per scendere dal palo che lo teneva immobile a spaventare i corvi. Dorothy lo aiutò, poi gli chiese notizie del mago di Oz. ma lo spaventa passeri spaventa corvi aveva solo paglia al posto del cervello e non sapeva niente. Decise di accompagnare Dorothy alla città di Smeraldo per chiedere al mago di donargli un briciolo di sapienza. E lo spaventapasseri ripresero il cammino. Quando udirono un gemito, si fermarono. Proveniva da una strana figura di latta, immobile ai bordi della strada. Brandiva una scure, ma non la poteva usare. Era il taglialegna di latta e aveva bisogno di una bella oliata. Dorothy corse nella sua capanna a prendere l'oliatore e il taglialegna arrugginito riprese a muoversi. Decise di unirsi al gruppo. Desiderava tanto un cuore e sperava di farselo costruire dal potente mago di Oz. Dorothy, il cane Toto, lo spaventapasseri e il taglialegna di latta attraversarono un bosco fitto fitto. Quando la foresta si fece troppo fitta, fu il taglialegna ad aprire un varco con la sua ascia. D'improvviso! Leone, leone, brutto musone, fin castigone! Di un leone, prendetela così con me che sono un cagnetto. Tu tanto feroce aggredisci me, tanto pacifico. Ma che fai? Piangi? Ma non volevo offenderti, leone. Predici? Zitta, Dorothy! Silenzio, taglialegna! E tu, spaventapasseri, non spaventare questo leone tifone. Lasciami sentire che cosa ruggisce. Ah, dice che lui ha un cuore di coniglio. E perché non vieni con noi, leone? Forse il mago di Oz potrebbe darti un po' di coraggio. Ripartirono in cinque: una bambina, un cane, un leone, uno spaventapassero e un taglialegna di latta. Giunsero fino al punto dove la strada si interrompeva davanti a un crepaccio. Come proseguire? Tremando di paura, il leone fifone promise di saltare il burrone per ben quattro volte, per portare i suoi quattro amici dall'altra parte, ad uno. Forza, leone! Il leone si fece forza e ci riuscì. Tutti insieme poi riuscirono a superare altri ostacoli ed arrivarono alle porte della città di Smeraldo. Erano porte di Smeraldo guardate da un guardiano. Prima di lasciarli entrare, il guardaportone dette ai cinque amici occhiali dai vetri verdi per non essere accecati dai bagliori di smeraldo della città di smeraldo. Anche il leone si mise gli occhiali e finalmente furono ammessi al cospetto del potente mago di oro. Il testone calvo che vedete sono io. Io sono il grande e terribile mago di Oz. E voi chi siete? Rispose Dorothy. Io sono Dorothy e vorrei tornare a casa mia. E rispose lo spaventapasseri. Io sono lo spaventapasseri e vorrei un cervello. E rispose il taglialegna. Io sono il taglialegna di latta e vorrei un cuore. E disse il leone, sono un leone vile e vorrei un po' di coraggio. E perché lo dite a me? Perché dovrei aiutarvi? Sono sempre io. Questa palla di fuoco è sempre il terribile mago di Oz. Io, il grande mago di Oz, non concedo mai niente per niente. Vi aiuterò ad ottenere quanto desiderate se ucciderete per me la perfida strega dell'Ovest. Ma io... No, Dorothy, non protestare. So quel che vorresti dire, che non hai mai ucciso nessuno, vero? Se non lo farete, non avrete mai niente da me. Anche tu hai una domanda in gola, vero, spaventapasseri? Tu ti domandi perché non la uccida io, che sono tanto potente. Non lo so e non mi riguarda. Andate, andate ora, andate. E noi, mogi mogi, ce ne andiamo, amici. Che facciamo, ci arrendiamo? Sì, sì. No, Dorothy la padroncina non vuole arrendersi. E tu, leone, coraggio non ne hai, ma se vuoi anche tu ce la fai. E tu, spaventapazzeri, cervello ne hai poco, anzi scusa, sei senza cervello. Unisciti anche tu a noi e qualcosa, succederà. Sono sicuro che verrà anche il taglialegna senza cuore, che pure ha orrore di uccidere. E andarono tutti, si incamminarono. E finirono tutti in mano della strega dell'Ovest, che li fece catturare e li costrinse a lavorare nel suo castello. Lavare per terra, pulire, pulire, sempre pulire, e non si riesce mai a finire. Spazzare, lucidare, pelare le patate. Le mie braccia sono sfinite, le mie braccia sono sfinite. Brutta strega, che fai? Ai, ma perché mi prendi a ombrellate, strega cattiva? Che male! A vedere quella scena, Dorothy non ci vide più. La strega colpiva il suo caro cane e Dorothy reagì. Stava lavando il pavimento e afferrò la prima cosa che le capitò a tiro, il secchio dell'acqua. Lo rovesciò addosso alla strega cattiva e la strega cominciò a sciogliersi e intanto gridava, Dorothy, tu mi fai morire, l'acqua mi farà sparire come un disegno scompare da un foglio bagnato. Così accadde. Dorothy e i suoi amici avevano vinto. Tornarono dal grande mago di Oz. Comparvero al suo cospetto, lo sentirono, ma non lo videro. Sono il potentissimo mago di Oz. Che volete? Perché mi cercate? Ma dove cos'è il terribile mago? Sono qui, ma sono invisibile. Abbiamo eliminato la strega. Bravi! Tornate domani e farò qualcosa per voi. Oh, veramente? Ah, la padroncina Dorothy non si muoverà di qui se non esaudirà il suo desiderio. E nemmeno io, che sono un cagnolino. E nemmeno lui, che è un leone. Oh, che spavento! Mi hai fatto fare un salto, leone! Ho fatto cadere un paravento! Guardate, amici, chi c'è dietro al paravento! Sono il potentissimo mago di Oz, il grande e terribile mago! Oh, un omino? No, non fatemi del male! Io sono solo un illusionista, il testone, la palla di fuoco, vecchi trucchi del mestiere, la città di Smeraldo, un'illusione. Lavoravo come ventriloquo in un circo. Un giorno sono salito in mongolfiera e il pallone volante mi ha portato su tra le nubi e poi giù in questa città. Qui la gente mi ha preso per un personaggio straordinario. Hanno apprezzato davvero i miei trucchi. Volete sapere perché questa città sembra di smeraldo? Perché faccio portare a tutti degli occhiali dalle lenti verde smeraldo. Solo le due perfide streghe potevano smascherarmi. Ma Dorothy le ha eliminate. Dovevo farvi grandi promesse, signori, per farmi liberare dalla minaccia delle streghe. Ma adesso non posso mantenerle. Niente cervello per te, spaventapasseri. Ma non intristirti, non ne hai bisogno, perché quel che conta è l'esperienza, e tu ne hai fatta tanta in questa avventura. Comunque, dato che ci tieni proprio, eccoti un impasto di crusca e spilli per imbottirti la testa. Avrai un'intelligenza pungente. A te, taglialegna, che sognavi un cuore. Ecco un cuore di segatura, nobile e generoso. Per te, leone pauroso, un sorso di coraggio, Bevi da questa bottiglia e ti illuderai d'avere bevuto coraggio e diventerai davvero coraggioso. E per la padroncina Dorothy? Fatemi pensare. 1, 2, 3, pensato. Una mongolfiera mi ha portato qui... Una mongolfiera mi porterà... ci porterà via da qui, L'illusionista tagliò lunghe strisce di seta. La bambina Dorothy le cucì insieme con cura. Ecco una magnifica mongolfiera. Il pallone fu gonfiato e... Sali, Dorothy! È il momento di partire! Si parte, sì, si parte! Oh, oh, oh, oh. La corda dell'ancora si era spezzata. La mongolfiera era schizzata in alto, lasciando Dorothy a terra. La bambina si lamentava, disperata, voleva tornare a casa. Come fare? Il leone, il taglialegna di latta e lo spaventapasseri decisero di scortare Dorothy e Toto nel viaggio via terra verso casa. Ci furono dure prove da superare, alberi che sbarravano la strada, un muro difficilissimo da scavalcare, una città di porcellana da attraversare, un mostro da combattere e sopraffare. Si ritrovarono dalla buona strega del sud e ad ognuno fu concesso di esprimere un desiderio. Lo spaventapasseri chiese e ottenne di tornare nella città di Smeraldo. Il taglialegna ebbe addirittura un regno tutto per sé, come il leone, che di diritto divenne il re della foresta. E Dorothy? La mia padroncina vorrebbe finalmente rivedere la sua casa! La strega buona disse che a Dorothy bastava batter 3 volte i tacchi e si sarebbe ritrovata proprio a casa sua. 1, due, tre. Casa mia. Gente di Oz, ma Toto dov'è? Toto è qui con me, Toto è qui con me.